Festival delle Culture a Ravenna dal 15 aprile al 22 maggio in Piazza Kennedy sarà presente l'illustrazione Ci sono amori senza paradiso, installazione appunto dell'artista e attivista Gianluca Costantini con cui ho il piacere di parlare adesso attraverso un collegamento telefonico. Sono qui. Come prima domanda appunto ti chiedo che cosa rappresenta l'installazione e poi anche attraverso l'uso del titolo, quindi delle parole, che cosa vuole trasmettere? È un'installazione molto grande in cui le persone possono entrare dentro e camminare in un percorso circolare. Quindi quando uno entra poi deve fare tutto il percorso fino a quando esce. Ci sono due serie di disegni, si può dire, che sono a sinistra nel cerchio grande, ci sono 17 ritratti di 17 donne, con scritto vicino come sono state uccise. Le donne sono rappresentate però nella loro quotidianità, quindi nella loro bellezza, nella loro felicità, non sono immagini tristi, però naturalmente le parole accanto rendono molto drammatica l'immagine. Poi uno può approfondire, ci sono dei QR code che approfondiscono la storia di quella donna, di cosa è successo. Sì. Dando i dati alla mano, dal 2025 sono stati 15 femminicidi. Sì. E ti chiedo quindi da dove nasce la tua necessità di creare appunto un'installazione proprio su questo argomento e se vuoi dirci appunto un pensiero su come si potrebbe cambiare la situazione? Sì, sai, questa galleria non è proprio solo una denuncia, ma è anche un mio senso di colpa. Mi chiedo spesso come si comporterebbe la società attorno a me. Sì. Cioè, sono pensieri che mi faccio e che cerco di un po' esorcizzare, cercando di aiutare, stimolando le persone. Questo è il mio intento, diciamo. Poi se lo raggiungerò non lo so, però dalle tante persone che la visitano mi sembra che possa aiutare un po' a rifletterci, a pensarci su almeno. Certo, sicuramente. Io ti ringrazio appunto per questa intervista telefonica. Ricordo l'appuntamento è per martedì 15 aprile alle 17 in Piazza Kennedy a Ravenna. Verrà appunto presentata per la prima volta, insomma, l'installazione dove sarà presente anche Gianluca Costantini. Però ecco, il Festival di Ravenna poi arriva fino al 22 maggio, quindi c'è un sacco di Sì, tempo per andarlo a esatto. visitare. L'evento è totalmente gratuito, così come gran parte appunto degli eventi del Festival delle Culture di Ravenna. Quindi vi invitiamo veramente ad andarci.